impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Fernando Favilli e Probios, cibi biologici da Firenze al mondo, di Alessandra Scaglioni. La storia di oggi racconta di come una piccola azienda di Firenze sia diventata negli anni un'azienda leader di mercato e presente in 48 paesi in un settore molto specifico, quello degli alimenti biologici legati al mondo delle intolleranze alimentari. La storia è quella di Probios ed inizia in Toscana nel 1978, come ci racconta Fernando Favilli. È nata dalla volontà di un erborista fiorentina e un consulente macrobiotico, nata da loro idea, perché non trovando reperendo dei prodotti per poter portare avanti queste sue loro attività, hanno deciso di fondare questa società per passione per il biologico e per importare dal Giappone questi prodotti macrobiotici che servivano a seguire delle diete particolari che loro piaceva fare. L'azienda poi ha preso un suo percorso e nel 90 siamo subentrati due nuovi soci, io e una socia attuale. All'inizio del 1990, anno in cui i due nuovi soci rilevano la proprietà, Probios è ancora una piccola realtà con un fatturato intorno agli 800 milioni di lire e 4 dipendenti, in un settore, quello del biologico, che è ancora marginale. I nuovi proprietari sono Rossella Bartolozzi e Fernando Favilli. Vengono da altri mondi e scommettono su questa avventura e su un marchio in cui credono. Io venivo dal mondo prima delle moto, perché da giovane correvo in moto, ero appassionato di moto, poi dal mondo informatica e poi sono entrato in questa avventura dell'alimentazione. Un'avventura perché era un set, voleva dire fare un passo indietro e tuffarsi in un settore che era una scommessa, perché era talmente embrionale, talmente piccolo, talmente povero, che era proprio una scommessa da fare questa. Oltre alla riorganizzazione dal lavoro sull'innovazione dei prodotti, arriva una scelta strategica, quella di specializzarsi nell'ambito dei prodotti biologici vegetariani, in un settore di mercato specifico dove c'era un numero minore di competitor e maggior spazio per crescere. Il settore, quello degli alimenti biologici, destinati a chi ha intolleranze alimentari. Ma la scommessa è stata il fatto che io ho fatto sempre commerciale in vita mia e quindi avevo fiducia che potevo portare qualcosa di nuovo nel settore e qualcosa di nuovo in questa azienda. Da lì abbiamo iniziato un percorso a costruire la nostra retagenti, a rivedere quelle sono immagini e prodotti e iniziare a studiare quello che poteva essere il mercato. Negli anni successivi poi abbiamo lavorato molto sull'innovazione, che questa è una cosa che tutti ci riconoscono sull'azienda, e abbiamo fatto i primi prodotti biologici per celiaci in Italia, investendo in questo e cercando di deviare da quella dell'offerta biologica classica, normale. La scelta si rivela corretta, perché Probios è pronta quando il mercato delle intolleranze esplode. Nei prodotti biologici classici si stava buttando, la GDO stava facendo marchi suoi, e quindi la scommessa, visto che avevamo intuito che stava crescendo questo fenomeno di intolleranze, era di specializzarsi in un settore dove gli altri non potevano non essere forti, non competitivi. La fortuna per la Probios, la sfortuna per noi consumatori è che il mercato poi è andato veramente in quella direzione, è esploso in quella direzione. A quel punto avevamo accumulato talmente tanta esperienza, talmente tanto vantaggio sui concorrenti che ha lanciato l'azienda veramente forte, diciamo. E negli anni l'azienda è sempre cresciuta, con cifre diverse a seconda dei periodi, in considerazione dell'andamento del settore e del mercato, con una crescita particolarmente significativa negli ultimi anni. C'è stato in quegli anni, gli anni fine anni 90 e inizio 2000, c'è stata una crescita molto molto forte. A metà 2000 c'è stata un po' una frenata, ma del biologico in generale, e l'azienda è sempre cresciuta, tutti gli anni è cresciuta positivamente. Negli ultimi 2-3 anni è ripresa una crescita fortissima, veramente importante, e la crescita è andata di pari passo anche con la crescita del settore, l'attenzione sempre più forte c'è sul biologico. Oggi Probios è presente in 48 paesi nel mondo, con diverse linee di prodotti e diversi marchi, con un fatturato che cresce a due cifre e molta attenzione alla ricerca e all'innovazione. Noi attualmente abbiamo circa 900 referenze. L'altra scommessa vinta è che noi abbiamo investito in marchi nostri, quindi abbiamo circa 16 marchi registrati a livello europeo che identificano l'azienda. E questo è anche importante perché lavorare molto sull'immagine dei prodotti, sulla cura, su come si presentano, è stato vincente. Fra l'altro abbiamo vinto alcuni premi internazionali molto importanti, uno nel 2004 in Germania, dove il nostro prodotto è stato premiato come prodotto europeo più innovativo dell'anno, e questo ci ha dato una bella immagine all'azienda. Non ultimo, un altro prodotto nostro in Germania è risultato al primo posto su 16 prodotti della stessa categoria, premiato dalla rivista Ocotest, che è una delle riviste più accreditate in Germania proprio nella selezione e analisi dei prodotti. Quindi sono tutti i riconoscimenti che ci fanno onore in questa nostro percorso. E l'azienda ha preso, in questi anni è diventata una delle aziende riconosciuta fra qualità e innovazione fra i primi posti in assoluto. I prodotti sono presenti in diversi paesi europei, in particolare in Germania, ma anche nei paesi arabi e nei paesi asiatici. Noi nell'estero ci abbiamo sempre creduto, sempre, anche se pur dall'inizio con mezzi più limitati, però abbiamo sempre investito in fiere internazionali, siamo sempre andati fuori. Attualmente Probios è presente in 48 diversi paesi. E quindi a marchio nostro biologico siamo una fra le aziende più attive in assoluto in Italia in export. Abbiamo una società in Germania, io credo sia l'unica società biologica europea che ha una sede in Germania proprio sua di distribuzione, e questo ci ha permesso di servire bene dopo una lotta abbastanza difficile in Germania, di essere fra i più presenti in assoluto sul mercato tedesco. Questo ci viene riconosciuto. E anche per il cibo biologico, come per tutto il settore del food, il valore del Made in Italy per le aziende italiane che vanno all'estero è un punto di forza. Il tema delicato è quello del coordinamento e del supporto a livello di sistema paese. L'accoglienza dei paesi è stupenda, perché quando si parla di Italia, di cibo, e fortunatamente per noi la Probios è a Firenze, si abbina tutta una serie di nomi e Firenze fa la sua parte, è tutto bene. Quello che secondo me sono le più grosse difficoltà è che ce le creiamo noi stessi in Italia, perché noi siamo tutte aziende medie di forza limitata. Non possiamo presentarci per dire negli Stati Uniti, un mercato enorme dove sono interessatissimi ai nostri prodotti, e non avere nessun appoggio a livello istituzionale. Non chiediamo finanziamenti, ma appoggi dove uno può essere presentato, seguito, delle commissioni dove ti portano, ti accreditano. Queste aprirebbero tantissime porte. Invece tutto questo percorso dobbiamo farlo sempre da soli. Se andiamo a vedere una fiera internazionale, tutti gli altri paesi, Spagna, Germania, Francia, hanno padiglioni uniti fra sé, l'Italia, che una regione da una parte, una regione dall'altra, uno qua, uno là, e non c'è unità e non c'è una forza istituzionale a presentare, a portare, a spingere. Ti lasciano da solo. Questo è il limite forte, perché essendo un settore piccolo, poi quando ti trovi a affrontare questi mercati, le difficoltà ci sono enormi. Però lo stiamo facendo. Tra le nuove strategie degli ultimi anni, anche la scelta dei canali distributivi, con l'obiettivo di aprire nuove strade per raggiungere il consumatore, senza per questo dimenticare quelle tradizionali. 3 anni fa abbiamo deciso di entrare anche nel canale della distribuzione organizzata in GDO, ed è un passo che nessuno nostro concorrente ha mai avuto il coraggio di fare. Noi l'abbiamo fatto cercando e ci siamo riusciti con delle regole ben precise, dove non ci fosse un abbattimento di prezzi nella GDO, ma tutti vendessero, avessero l'opportunità di vendere allo stesso listino. Quindi i nostri interlocutori hanno accettato questa sfida di fare delle isole dei nostri prodotti, quindi trovare i nostri prodotti tutti concentrati e seguire il listino nostro consigliato, di modo che anche il piccolo negozio avesse la possibilità di giocarsela alla pari e non trovarsi penalizzato questa presenza. E poi abbiamo sviluppato tutto quello del canale farmaceutico con retagenti e nostra dedicata. Questo perché abbiamo nei nostri prodotti più intolleranti, abbiamo oltre 140 prodotti per celiaci mutuabili e quindi appetibilissimi al canale farmaceutico. Quindi lavoriamo specializzato, farmaceutico e GDO. Abbiamo visto che con regole precise, con attenzione da parte dell'azienda, possono convivere insieme, e non abbiamo perso assolutamente fatturato o creato difficoltà ai nostri clienti storici. Anzi, anche loro hanno continuato a crescere e allargare il mercato. In 25 anni i numeri dell'azienda sono cresciuti in maniera significativa e le prospettive sono buone anche per il futuro. fatturato nostro del 2014 di gruppo ha superato i 30 milioni, con una crescita del 20% ha avuto circa, quindi siamo molto contenti. Stesso discorso, è iniziato l'anno, è iniziato in modo stupendo, forse ancora più forte dell'anno precedente. Quindi questo è stato una buona cosa, e la buona cosa è che il settore in generale sta tutto crescendo, il biologico, anche i nostri concorrenti stanno performando abbastanza bene, quindi è un mondo che si sta muovendo nella direzione del biologico, l'attenzione sempre più a quello che è l'ambiente, al benessere, alla salute, e questo dà forza a quello del settore e alle aziende del settore che hanno, diciamo, esperienza in questo senso qui. Ottime prospettive di crescita potrebbero arrivare proprio dall'estero. Estero incide intorno al 15% del fatturato. Potrebbe essere tanto, tanto, tanto di più, perché è un mercato immenso. Un mercato immenso che riconosce ai prodotti italiani la sua forza. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.